La mezzanotte arriva, è solo un'altra notte. Spingo un'altra rima, poi sarò ancora insonne. Un altro beat in loop, un altro cazzo di groove. Another insanity mood, another day sound. La mezzanotte arriva, è solo un'altra notte. Spingo un'altra rima, poi sarò ancora insonne. Un altro beat in loop, un altro cazzo di groove. Another insanity mood, another day sound. Scusi. Qui sul letto, sdraiato a pancia all'aria, rifletto su questa vita precaria, ammetto. Stanotte non dormo, pensieri per la testa che mi fottono il sonno. Le palpebre incollate al sopracciglio, non so cos'ho, però non sono tranquillo. La mia testa è occupata da un grillo, all'orizzonte neanche l'ombra di uno sbadiglio. Ne accendo uno, cosa accade su sta terra? Che c'è qualcuno cancellato dalla guerra? E questa merda è un fulmine da tempi a tempi. Prevedo una catastrofe, spero che non si adempia. E quando guardo dritto quel soffitto, sai, mi viene voglia di non rimanere zitto mai. E dici dormi poi domani ci ripenserai, ma non è mai il finale che hai. La mezzanotte arriva, è solo un'altra notte. Spingo un'altra rima, poi sarò ancora insonne. Un altro beat in loop, un altro cazzo di groove. Another insanity mood, another day sound. La mezzanotte arriva, è solo un'altra notte. Spingo un'altra rima, poi sarò ancora insonne. Un altro beat in loop, un altro cazzo di groove. Another insanity mood, another day sound. Sono notti folli da schiantarsi per terra come Buddy Holly. La bamba ti fotte la testa come quella del sol. Siamo pazzi in giro per la city, insonni di una vita loca come Ricky. Sogniamo vacanza al Waikiki, poi i soldi non bastano perché il rap non ci fa ricchi. Ricordi, siamo l'oceano in tempesta e siamo spinti a navigare la notte come Nespa. A sinistra pupilla rimbalza, dentro la testa un flash che mi incalza. Voglio more relax dentro la stanza, giù di sostanza un'altra notte avanza. Accendo la TV, passa solo merda. Scorro file audio, clicco la cartella. Pompo il più fat megabit che cartella. È quello che mi culla, dopo dormo bella. La mezzanotte arriva, è solo un'altra notte. Spingo un'altra rima, poi sarò ancora insonne. Un altro beat in loop, un altro cazzo di groove. Another insanity mood, another day sound. La mezzanotte arriva, è solo un'altra notte. Spingo un'altra rima, poi sarò ancora insonne. Un altro beat in loop, un altro cazzo di groove. Another insanity mood, another day sound. Arriva ancora il buio, un altro giorno è andato. Un altro giorno insicuro, è un San Bernardo impazzito. Che occhi pazzi come cuio, fumo un'altra sigaretta, ci bevo sopra come mi ha insegnato il cugio. Occhi fissi sul monitor, pompo un altro beat in loop, un altro in heavy rotation. E ho il cervello in bamba e la musica palla. Sono le tre di notte e ho il vicino che bestemmia. Un casino in testa, violento una tastiera. Scrivo rime da battaglia come il Piotta. I got soul come Mista e ho sonno che cincischia. Me la vivo in 3D come Windows Vista. Qui è una questione di razza o di casta. E se togli la gancia, il 666 della bestia. Il rock degli anni 70 resta solo l'essenziale. Ehi, resta solo Zorba. Ma dove sei stato tutta la notte?